Lui è il fiume, di là dal vetro c'è il fiume. C'è un argine che ci separa. Esatto, il fiume è il grande mito. Esatto. Stasera siamo tutti sul lungo il fiume. Hai capito? È sacrale sto coxo, coxo esatto. Letterario sacrale. No, comunque, fra l'altro, colgo l'occasione per ricordare che Gianluca Di Dio e Gabriele Via sono degli ospiti coxici storici. Storici, questo è vero. Esatto. Che ritornano sempre insieme. Di tanto in tanto. Siamo bisestili ogni 4 anni. Noi. Entrano e se ne vanno insieme. Sì, poi dopo si separano, però dopo 4 anni. E arrivano sempre qui per ragioni letterarie. Certo. Dico bene. Sì. O perché il parcheggio è scaduto, insomma, però ci sono, c'è un congiungersi di necessità e di poesia insieme, esatto. Di gratuità. Io sul parcheggio scaduto. No, allora. È il coxo numero 289 interamente dedicato a Più a Est di Radi Kuok. Esatto. No, la dici tu? No, la U, cioè alla Ulaut, però può essere detto in vari modi. Alla Ulaut, che sarebbero i due puntini in sopra. Sarebbero i due puntini, sì, la diesi. Ma in realtà noi lo pronunciamo alla parmigiana. Anche. Ah, quindi? Radi Kuok. Radi Kuok, sì. Ok, mi piace, più a est di Radi Kuok. Che cos'è? Che cos'è? Di cosa parliamo in questo coxo? Dicecelo un po'. Io farei parlare il mio relatore e presentatore Gabriele. Allora. Perché in questa veste abbiamo due poeti, esatto. Dei quali uno, Gianluca Di Dio, è in veste di autore di un romanzo. Sì, ma diciamo la parte bassa del duo, mentre la parte elevata è Gabriele, necessariamente che, essendo un poeta. Vi poeta, ringrazio. Anche lui da poeta a poeta, che è qui per introdurci a quest'opera, magari farci anche qualche lettura. Comunque, è un grande onore per me, soprattutto perché questo ruolo di annunciatore, questo è il mio pseudonimo Gabriele, è colui che annuncia, per cui... Ci tengo ad aggiungere un'ultima cosa. Cari coxo ascoltatori, sappiate che questa è una coxo esclusiva, perché per la prima volta verranno letti dei brani nel corso della puntata da questo romanzo più a est di Radi Kuok, che è uscito ma una manciata di settimane fa. Esatto. Ecco. Sì, anche questa, come tutte le verità vere, è una verità che è vera in parte perché ci sono state delle... degli annunci precedenti la confezione del libro e io sono stato testimone di questa cosa. Ma insisti. Questo è ancora la storia della verità delle cose. Quando Pasolini pubblica, ad esempio, sbaglio sempre perché io sono peggio di lui, che dice mi raccomando che mi sbagli, mi scrivo le cose e poesie in forma di rosa, non vorrei sbagliarsi. La raccolta del 64 appare una poesia bellissima che poi ha avuto anche una sua storia al di là della raccolta, che è La ballata delle mani. Ma 2 anni prima l'aveva già pubblicata su Paragone nel 62. Tomò, e questo, Gabriele se ne è accorto. Non è che Gabriele se ne è accorto, questo si sa. Questo si sa. Allora, questo romanzo che ora è qui composto, che è una matrioska, che poi vedremo, che la si può leggere sia rompendo i gusci andando dentro, ma anche partendo da un nucleo e facendolo esplodere, esatto, o una cipolla, no, che sfoglia. Ma piange? La cipolla ride. Intesa come un insieme di cose che sono fasciate una nell'altra. Come ci si veste d'inverno di suoi tempi. Esatto. Secondo la temperatura tu puoi leggere in modo diverso. Quest'estate in Piazza Verdi è stata rappresentata parte di questo libro per la voce di Bruno Story e quattro musicisti da paura, bravi, che hanno quindi aperto in piazza per il pubblico con la musica la poesia di questo libro. È stata quindi già annunciata. Però il libro è uscito in novembre. E noi del Coxo siamo onorati di far parte di questa coralità plurale sacra e letteraria. Ecco, quindi questo era per... E in che ambiente siamo? Siamo nell'ambiente di una lingua padana. Cioè, lo dico con grande prudenza perché non si tratta assolutamente di un localismo che sminuisce. Non è il romanzo del cugino, dell'amico, del supermercato. Che siamo nella tradizione della lingua italiana, alta, che però ha... dei propri innamoramenti e dei propri vizi, fra virgolette, delle proprie abitudini, delle maniere che si possono riconoscere. così come noi possiamo riconoscere la formidabile salute linguistica della scuola siciliana, che dall'origine fino a Camilleri ci presenta la solidità di una lingua imbarazzante. Comunque Gianluca, hai fatto bene a portarlo, perché è bravo lui. Allo stesso modo noi abbiamo la pastosità al di là dei mondi della lingua padana. Adesso potremmo fare nomi in fila, con Gianluca abbiamo fatto il nome di Celati, ma possiamo andare indietro. Io prenderei Bacchelli, che è un grande dimenticato, che è un romanziere a livelli di Balzac. Non abbiamo nulla da invidiare ai cugini francesi, che è un grande narratore, che ha questa solidità interiore della continuità del linguaggio che la follia padana sa tenere insieme. Ci sta la follia proprio, ci sta l'onirismo, ma ci sta anche la capacità ingegneristica di uno che deve fare navigare una chiatta sull'acqua, deve portare le cose da un punto all'altro. Hai ipnotizzato la... Gianluca. Sì. No, sembrava ipnotizzata, Gianluca, dica. Dopo cotante... Non so neanche più che dire, in realtà. Cioè, nel senso andiamo che... in un qualcosa di un po' più terra-terra, con le mie domandine. Mi piacerebbe... Sì. No, continua tu, poi per le mie domande c'è sempre tempo. Allora, questo romanzo in realtà ha una genesi, come tutti i miei romanzi, nasce da delle parole, da dei concetti. Io mi faccio tutta una mappa concettuale, tutta una mappa mia anche un po' così irrealistica, e poi devo incarnare questi concetti in luoghi. Allora, io sono partito da due parole che sono praticamente utopia e orfanità. Sono partito dall'orfanità, cioè volevo in realtà scrivere un romanzo utopico, volevo scrivere un romanzo come il film Fitzcarraldo, ve lo ricordate, di Herzog? Mm-hmm. Per me quello era l'apoteosi dell'utopia narrata. Però ho cominciato a frugare, a fare storie vere, inventandone dei pezzi, connettendo il vero e il falso, così, e non riuscivo. Cioè, scrivevo una ventina, trentina di cartelle e poi buttavo via tutto. Però mi dicevo, continuavo a dirmi, cosa c'è di più bello dell'utopia? Cioè, cosa c'è di più alto? Cosa c'è di più? Ogni grande capolavoro ha a che fare con l'utopia, però non riusciva ad approcciare questo, ad arrivarci seguendo il mio istinto. A un certo punto dicevo, anche tutti i grandi, persino la commedia di Dante è un'utopia, se vogliamo, è un'utopia rappresentata, un'utopia perché è appunto di un mondo che non si conosce, però che si immagina tale. E da quel momento lì ho cominciato a ristudiare un pochino delle cose che non ho studiato neanche al liceo, e mi sono accorto che la cosa più che mi colpiva di più era l'aspetto simbolico detonante della commedia, chiaramente, ed era quello che si confaceva di più al mio lavoro di scrittura. E quindi sono andato a questo punto. Il lavoro era su trovare un'immagine simbolica talmente forte per l'utopia che potesse dare inizio, scaturire la scintilla per poter iniziare il lavoro. Would you? erotica, sì, no? Le immagini forti simboliche, simbolica, aveva lavorato sul simbolo, ha iniziato alla ricerca di parole. Poi adesso piano piano entriamo più in fa e riprendiamo il racconto. Sì, sì, come no, stavo parlando di questa immagine, di questa immagine simbolica, utopica, forte, che potesse dare, scaturire, far scaturire tutto il lavoro, e l'ho trovata nel diluvio, cioè qualcosa che descrivesse il nostro momento reale, in realtà, cioè, e l'ho trovata appunto in un diluvio secco, un diluvio asciutto che porta via le persone in maniera tragica ma comica nel contempo, una specie di tsunami di disgrazie concatenate incredibili. E, qualche esempio? Sì, ci sono parecchi esempi nei racconti. Ci sono persone che muoiono, per esempio, perché hanno creato dei funghi, un enorme fungo nel passo carraio di cemento in onore di un fungo che era stato raccolto in un bosco, e inciampano e piantano una testata e muoiono, per esempio. Oppure ci sono altri che muoiono in altri modi più strani, ma come già dall'inizio del libro, dove c'è Bren, appunto, che muore perché è investito mentre porta la posta sulla sua moto. Muore in modo particolare. In modo particolare. Beh, sì, perché... lo leggeremo, penso, sì, questa sì, cosa. Sì. Ma questo libro però fonda le radici molto lontano. Dico nel bene? Tempo? Sì. Ti ha accompagnato per un bel po' questa ricerca e questo binomio di temi, da un lato quindi l'orfanitudine, dall'altro l'utopia. Esatto, sì. È un libro che ho fatto, cioè che ho incominciato a scrivere parecchi anni fa, e anche ho fatto molta fatica a pubblicare, a differenza degli altri che comunque sono libri a cui sono affezionato, ma non quanto questo, proprio forse perché è il più difficile, il più complesso, ma è anche quello che mi ha dato grandi soddisfazioni, ma è anche quello che ho fatto più fatica a pubblicare, proprio perché c'è è molto lontano dagli stereotipi e dalle categorie che sono utilizzate adesso dal mainstream, no? Quindi non tanto per scelte personali, ma proprio per una questione di forma e dialogo con il mercato, e il lessico degli editori. Esatto, e dove ci sono stati degli anni, adesso magari si sta ritornando più a una letteratura utopica, comunque irrealistica, un surrealismo esistenziale, diciamo, che, per prendere un termine che è stato utilizzato anche per Zavattini, no? Se vogliamo raccontare dei padri, insomma, di questo tipo di letteratura, ma ci sono stati degli anni in cui tutta la letteratura è fondata sul realismo, su un realismo anche derivante dai media, quasi degli instant book con cui si cercava di descrivere in modo immediato una realtà che era difficile da contenere. Instant book, ok, scusami. Sono Cesare Pietro Iusti, ecco. E stai ascoltando Coxo Spaziale. No, ogni tanto bisogna mettere le cose in chiaro. Perché giustamente il maestro non lo ascolta lui, lo fa ascoltare agli altri. Esatto. Quindi qui capitano delle cose, capitano cose anche a livello proprio acustico. Ovunque, sì. Il coxo è come la vita. Sono dei fantasmi. Esatto. Funziona più o meno uguale. Anche qui ci sono dei funghi che crescono, da qualche parte, noi siamo dei sopravvissuti. Abbiamo Giffo piuttosto arrabbiato che non ci sono ospitesse in trasmissione, e poi l'avete silenziato, mi sa che siete un po' troppo intellettuali per lui. Vabbè. Ma è un fatto di ritmo, un fatto di contenuti, è un fatto di... È un fatto di, come si dice? Di gnocca. Esatto. È la nostra colonna portante, l'ascolto che si connette dal Veneto in streaming. E vuole foto delle ospitesse. Sì, perché spesso ha trovato fidanzate. Sì, esatto, perché poi le tacchine insistentemente, alle volte anche ragazzo. Incredibilmente con successo. Sì, sì. Beh, abbiamo delle immagini, se possiamo far vedere. Possiamo andare avanti o? Non lo sì. So. Bellissimo questo jingle. Anche se ci stiamo avvicinando a un momento. Ci stiamo. Oddio, una telefonata in diretta. Metti in viva voce. Metti viva voce. No, ha mollato. Ah, ai ai ai. Ah, peccato. Annaggia, questi contenuti preziosi. Perché ci stiamo avvicinando ad un momento strategico, però mancano architettonico, 5 minuti, strutturale. Sì, 5 minuti, e con questa... cosa? 5 minuti per le pubblicità delle 7:30. Però. 5 minuti ci può stare l'incipit del libro, buttatole così. Buttalo così, dai. Buttato e poi anche un po' allargato. Andiamo. Si può morire anche per colpa di una carpa. Lo so. È successo a Brenno, mentre portava la posta sulla via di Borgo. Non c'aveva il parabrezza sulla moto, in un attimo da un fosso gli è schizzata una carpa in un occhio. È caduto ed è morto, mentre la carpa è rimbalzata sull'asfalto tornando nel fosso dall'altra parte della strada, salva. Lo so. C'era sul giornale la faccia di Brenno col berretto delle poste. E allora perché stupirsi se in 2 settimane sul giornale c'era pure tutta la mia famiglia? Sono gli unici giornali che ho tenuto in vita mia. Quello con Brenno, quello con la mamma e quello di mio padre con mia sorella e mio zio. 3 giornali mi sono rimasti. Un gatto e un sacco di vestiti di cui non so che fare. Per un certo periodo non ho più comprato niente. Quando il congelatore è rimasto vuoto, ho mangiato solo le susine dei vicini e i pomodori dell'orto. Ho messo i pantaloni di mio padre, che era alto come me, e le giacche di mio zio, che era più nuova di quelle del babbo. E non ho più bisogno di niente per un bel po'. Per mesi. Un paio di mesi. Poi un giorno sono uscito e mi sono detto: è un fatto. Io sono un sopravvissuto. La morte ha voluto regalarmi una possibilità. Lei ha visto in me qualcuno che non si può prendere in giro come Brenno. Qualcuno che merita rispetto. Bene, è importante. È importante allora che io sia all'altezza di questa considerazione, mi sono detto. È importante meritarla, fare attenzione, essere sempre pronto in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Subito dopo mi sono guardato in un fosso vicino a un fiume. E come ho provato a ridere e a ridirle ad alta voce, quelle cose mi hanno convinto totalmente. E mentre sono lì a 4 zampe che mi specchio nell'acqua, improvvisamente sento qualcosa e mi volto. Di fianco a me, pochi metri più in là, un gatto sta facendo la stessa cosa, nella mia stessa posizione, davanti allo stesso fosso. È un gatto giallo, tutto imbrattato di sabbia, e mi guarda, spento come un fiore di Terital. Faccio per avvicinare la bocca all'acqua e lui lo stesso. Tocco la superficie con un dito, lui con la zampa. Tiro uno schiaffo in aria e subito anche lui. Allora grido: basta copiare! Ma lui non grida niente. Se ne va piano e appassito verso la riva del fiume. Lo vedo allontanarsi, superare dei sassi maleodoranti e continuare sull'erba umida che cala nell'acqua. Poi lo perdo. Mi alzo di scatto e corro. Ma faccio appena tempo a vederne la coda, spunta da un gorgo come in un'evoluzione di nuoto sincronizzato. La vedo scivolare via per un po', issata in aria come un'antenna, poi di colpo giù, nelle budella del fiume. Allora mi siedo nell'erba a pensare, rifletto molto, provo a trovare tutti i possibili significati, me li dispongo in testa su una bella tovaglia da picnic, faccio e disfo tutte le ipotesi per i più intricate e più correnti, ma niente. Nulla riesce a portarmi via dalla prima incrollabile convinzione che quello sia un segno, limpido, purissimo, un comando. Nessuno avrebbe potuto parlarmi con maggiore franchezza e intransigenza. Così torno a casa, prendo il mio gatto e lo annego. Segna la data. 17 novembre 26. Stai ascoltando Coxo Spaziali? Stai ascoltando, cosa si dicono questi? Loro parlano di letteratura, si misurano, si confrontano. E noi mettiamo, aspetta che sposto il silenzio, che è sempre molto utile. Sì. Note, notizie di l'angolo della menzione. Sembra veramente vero. c'è un sacco di roba. Quello che dico adesso io, ce la smazziamo tutte, direi diamogli un po' di privacy. Mercoledì lo dici tu che c'è loro la loro. Va bene, però abbassali che tanto non ci sta a sentire. Ok, sì, aspettiamo, ecco così. Allora, che succede mercoledì? Mercoledì 4 dicembre. Aspetta, ecco, ritenta. Mercoledì 4 dicembre. Ok, ce l'abbiamo fatta. Mercoledì 4 dicembre alle ore 19. Presentazione, non presentazione. Vado a leggere dagli appunti che ho. Sì, forse meglio di no, sì. No, non mettere lo sacchetto. Mi è scappato, sai com'è? Il silenzio dura poco. Sei pronto? Sono prontissimo. Il 4 dicembre alle ore 18:30. Ah, ecco, non era alle 19. Ma scusa, te l'ho chiesto alle 19, ma hai risposto, ma avete risposto. Stavo ascoltando la sigla io. Alle 19, ma comunque recuperiamo. Ok, no. Riparto di nuovo. Riparto. Ok. Dai. Mercoledì 4 dicembre alle ore 18:30, come uccidere la solita presentazione del libro e vivere felici alla sede dell'Associazione ABC in Piazza di Porta Castiglione 3. E poi abbiamo invece venerdì 6 dicembre c'è e alle 18 c'è il finissage della mostra di Mario Airò, Il pipistrello bianco, e dunque ci sarà una conversazione con Mario Airò e Nino Castagnoli, e questa è alla Galleria De Foscherari in via Castiglione 1-3, non lo so, è difficilissimo, è adesso difficilissimo. Aspetta che devo mettere un attimo in stop questo, ecco, e poi si passa un po' di sotto. Quello, vai, sempre venerdì alle ore 19. Paesaggi di Graziano Pompili a cura di Sandro Malossini. Mai girato? È Malossini. Questo è al. Un viaggio di musica e parole? No, questo è un altro. Ah, mamma mia! In viale Aldo Moro 50 a Bologna ed è l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna. Bel posto. Io però da queste menzioni mi dissocio. Tu ti dissoci dalle menzioni. Torno di là. No? Dunque, no, invece questa è lunghissima perché non ho fatto in tempo di fare copia e incolla. Sempre venerdì, però stavolta dalle 19 fino alle 24 c'è un viaggio di musica e parole fra Bologna e la Gran Bretagna. Alle 19 c'è la presentazione del libro Siamo nati da soli, punk rock e politica in Italia e in Gran Bretagna, Pacini editore del 2019, con Alessia Masini che è l'autrice, Laura Carroli ex Raff Punk e compagni del circolo anarchico Berneri. Nel frattempo, oltre all'aperitivo, non ci interessa l'aperitivo perché alle 21 facciamo i Nabat, no. Si festeggia il compleanno dei Nabat, 40 anni, proprio no. Nel luogo in cui hanno iniziato a suonare nel 1979. La storia del punk oi bolognese si esibisce per l'occasione in acustico. Ma questa è proprio una cozzata. Hai visto? No? Bello, infatti bisogna assolutamente andare sia da Graziano Pompili, che saluto, che a vedere in Abat. Dopodiché sabato 7 dicembre alle ore 18 Simona Ragazzi è lieta di invitarvi alla sua mostra personale curata da Francesca Gualandi presso la Galleria Sgallari Arte nel cuore di Bologna, che è in Galleria Falcone Borsellino 3F, www.sgallariarte.it. E non è venuto, eccolo. Stefanuccio, promettimi che le menzioni me le lasci fare a me, visto che adesso sto disoccupata per lo più. Ah, beh, c'è, ma molto volentieri, ma io ti lascio anche la regia e anche tutto il sito. No, la regia mi sta divertendo. Naturalmente qua col microfono al gelato. www.coxospaziale.blogspot.com. Da domani troverete tutto quanto per magari capire che cosa abbiamo raccontato. E dopo questo basso livello di radiofonia. Lo metto? Riprendiamo il discorso parlando nel dettaglio della prima menzione o mettiamo un brenino musicale, che dici, caro? Come sono preferisci? Mettiamo e Cesare Pietro. Ascoltando Coxo Spaziale. Molto bene. Mettiamo, aspetta che vado, torno su YouTube e metto un altro pezzo di Christian Rainer, perché mai stiamo ascoltando Christian Rainer? Gianluca, ce lo può dire Gianluca? Sì, diccelo. Dicillo. Ma Christian era praticamente una costante per rientrare nell'atmosfera di questo romanzo. Questi brani di Christian sono particolari, sono un po' nostalgici, ma hanno anche sempre qualcosa che va oltre la nostalgia e che mi servivano come una preparazione atletica alla scrittura. È stato strano, sono molto affezionato a questo disco qua, che si intitola Turn Love to Hate. Esatto, oh, che ricordi. E quella che stiamo ascoltando è A Love Who Lives Alone. I won't say nothing tonight if you remain and listen. Only tonight, close my lips with your lips so tight. Just not to have you in a dead moment still, not to be less than me. Aspettato che parta una voce femminile in una canzone che si chiama Love Who Lives Alone. È bello sto disco, ma infatti dovremmo invitare Christian a raccontarcelo, a suonarci qualcosina. E anche dal gli vino. Altri che sono seguiti. Infatti. A proposito di artisti, poeti. No, no, fra l'altro questo disco qua aveva una caratteristica che Christian ha fatto realizzare. Per ogni pezzo ha fatto realizzare un video da amici artisti. Sono dei video molto belli, eh. Sì, ho visto. C'è un video di Cosimo Terlizzi molto bello. Sono varie cose belle. Eh sì. Amarcord. Ma ritornando a noi. Il brano letto magistralmente dall'illustre Gabriele Via, che bravo, fortunatamente Gabriele ritorna insieme al nostro poeta, l'incontro tra i poeti, e era in prima persona, quindi sì. Posso desumere che questo libro abbia un protagonista, allora, o una voce, o vogliamo parlare di voce narrante? Allora, il libro ha una struttura a matriosca, nel senso che ha due voci narranti, che sono due prime persone, perché all'interno del racconto principale, che è appunto narrato dall'inizio dal protagonista diciottenne, ventenne, che si chiama Lucio, c'è anche un racconto del padre di Lucio, che è proprio sta nel cuore del romanzo, che occupa il posto centrale del romanzo e che ha un significato simbolico molto forte, molto evocativo. E lì sarà la voce del padre di Lucio, scrittore, che racconta un altro tipo di ambientazione molto particolare, a est appunto, e che dà il nome e dà il titolo al romanzo intero, cioè Più est di Radicurk. Cioè Più est di Radicurk è il racconto del padre di Lucio, mentre la storia dall'inizio è narrata da questo ragazzo a cui muore tutta la famiglia in un momento, in un colpo solo. Praticamente sono tre eventi che si susseguono a distanza brevissima di tempo e lui rimane da solo, senza una direzione, senza una missione, senza un perché, senza un senso. Ed è quello che... E questo è praticamente un'immagine di un'orfanità che simbolica, che racconta un po' lo stato in cui ci troviamo noi nel mondo d'oggi, attualmente, e vuole risolvere questa sua situazione di mancanza e la risolverà grazie all'incontro con questo personaggio carismatico, misterioso, che è un dentista di tutta la riva destra del Po, che però ha un progetto sovrumano e che lo coinvolgerà e gli darà una direzione, gli darà una missione da compiere. Mannaggia, vorrei chiedertene sempre di più, ma al contempo so che mi brucerai poi il libro, quindi sono in una situazione completamente scomoda in questo momento. Okay. Gabriele, mi aiuti tu in qualche modo? Sì, io sarei tentato di riprendere la lettura e via, però dicevi prima se chiedevi due parole sulla presentazione del libro, se ricordo bene. Sì, ma a questo punto la farei in coda. Diamo voce a questo secondo libro contenuto nel libro. Sì, anche se al momento vorrei, per chi si fosse sintonizzato adesso, ricordare che questa puntata di Coxo Spaziale è felicemente dedicata a Più a Est di Ruddy Kirk, che non si pronuncierebbe così perciò che c'è la diaresi, ma lo diciamo così, sì, esatto, alla nostra, che è l'ultimo romanzo pubblicato da Gianluca Di Dio, poeta letterato, e insieme a lui, per parlare di questa, di quest'opera, abbiamo anche il poeta Gabriele Via, che che sta prestando voce ai protagonisti, alle voci narranti di questo libro. E ce ne presti un altro poco? Salve a tutti, sono Pino Foresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. Come diceva Gianluca prima, queste che ascolteremo sono le parole con cui inizia il libro nel libro. Esatto. Tomo. Esatto. Tomo. Cioè queste di Pino Foresta? No. No, non queste. Queste che verranno. Queste che verranno. Arrivando ad Aniemi bisogna tenere sempre la destra. È passato il bivio per Tavintola, seguire la strada sterrata fino alla provinciale. Da lì si avanza nella foresta di Betulle per 17 chilometri, fino alla stazione di Kirk. Ruddy Kirk è poco più in là, accartocciata sull'ansa del fiume. Ci si arriva a piedi e la si vede dall'alto, senza che mai possa scomparire nemmeno per un passo. Ghiacciata, violacea, muta e lucidamente decomposta. Ruddy Kirk è un enorme cetaceo rantolante sull'acqua, una domestica grassa coi calcagni secchi e crepati che ogni giorno pulisce le stanze, ogni giorno resta sempre la stessa, grassa e crepata e piena di vermi. Resta com'è all'infinito, come una che non muore mai e che non sa cosa sia vecchiaia, perché resta sempre di quell'età che si ha quando si nasce morenti. È la prima volta che torno a Ruddy Kirk dopo la guerra. Tempo fa qui avevo un amico. So che se n'è andato e saprei pure dove raggiungerlo ora, ma preferisco dimenticare. Quel periodo è stato troppo generoso, non voglio illudermi. Nulla di simile potrà mai capitare di nuovo. Mi consola il fatto, però, di avere passato parecchio tempo in compagnia di questo posto e di conoscerlo come un amico, appunto. Tanto che, nella mia testa, le due cose si sono scambiate di ruolo e così questa città è diventata il mio compagno e lui si è trasformato in una città lontana a cui non si può ritornare. Non avendo più nulla di cui mi importi, aspetto qui a Ruddy Kirk. Aspetto, in attesa di un po' di stupore o del definitivo orrore per la vita che fa fare tutto in fretta e senza calcolo. Ho preso alloggio allo Scone, una baita di pino affacciata sui binari, e su un mercato che vende pezzi di vita usata virati in un color amarezza. Ogni giorno salgo la scala di legno cigolante e dall'ultimo piano della mia camera fumo per ore per coprire l'odore di ferraglia che viene da fuori. Guardo le panchine della città esageratamente lunghe e piene di gente stanca. Poi vado a fare la doccia, spesso con la sigaretta ancora accesa, e quasi sempre mi succede di immaginarmi la signorina Karin della reception, sporca di terra e con un abbozzo di coda che le spunta una spanna sopra il posteriore. Così la immagino. Alla reception esibisce una voce rustica e saporita come il pane che si mangia qui. Cerco sempre di uscire e rientrare durante il suo turno. La sua vista distilla umore dolce dal mio sguardo e poi mi aiuta a dare un verso alle giornate che altrimenti sembrano senza alternanze e infinite come solstizi polari. La notte, prima di dormire, non posso fare a meno di guardare dalla finestra la panchina attaccata ai binari sotto la mia stanza. Mi è preso come un vizio. Tutte le notti, quasi alla stessa ora, compare una figura con un sacchetto di plastica. Dal niente compare lì e sta seduta tutta la notte nello stesso punto, o almeno fino a che non mi addormento, perché quando appena sveglio, con uno scatto vado a controllare, lei è già scomparsa, evaporata, sprofondata. Deve essere una donna almeno lo era, e dà l'impressione di portare ben stampate in faccia diverse manate sporche che la vita le ha lasciato senza cortesia. Per il resto, sembra aver ereditato ben poco. Un cappello di stoffa pesante con visiera calettato a fondo, due stivali lunghi, neri, e una giacca di pelle senza manica che porta con niente sotto. Non si separa mai dal suo sacchetto di cellophane, sempre gonfio di resti a perdere di ogni tipo. Lo tiene in mezzo alle gambe, attaccato alla mano come a un lucchetto, e quando non si lamenta in silenzio scuotendosi piano, si appassisce ricadendo su se stessa, arrotolandosi la testa verso il basso, sul torace, la schiena come un guscio, come un cartoccio di stagnola unta e impenetrabile all'aria. Ciò che rimane dopo che dentro si è consumato tutto. Un cartoccio umano, un accartocciato, uno dei tanti che vagano in città. Cox spaziale. Che dire, Fedra? Wow, grazie. Oddio, ho sbagliato. Ho già fatto quello, è stato un incubo oggi, veramente. Tra l'altro mi si è staccato un pezzo. Comunque ti ringrazio, per questo momento di jingle a caso, perché mi ha un attimo risvegliato da questo torpore immaginifero in cui ero finita. Ma che posto è sto Radikurk? È accartocciato forte. È stato sull'ansa di un fiume. Ma è decomposta. Però è anche come una maid che lava i piatti e lava le stanze e sai, calcagni secchi e crepati, quindi quindi non vedo l'ora che sia il 4 per venire alla sede dell'associazione ABC in piazza di Porta Castiglione 3 ad assistere a come uccidere la solita presentazione del libro e vivere felici. Sì, perché due parole sulla letteratura dobbiamo dirle. Diciamole. Questa cosa mi ha colpito perché è vera, no? È vera questa cosa, e la sua verità mi ha colpito. Una qualsiasi cosa che tu senti dire, no? Nella letteratura, quello che ti colpisce perché è letteratura. E questo è il grande segreto per cui la letteratura è sacra in origine, e i poeti cambiano la vita dei popoli in origine. Oggi che siamo davanti a... Questa poi me la spieghi meglio con un gin tonic, sì, dopo la trasmissione. Oggi che siamo nell'epoca... La letteratura è sacra. Oggi che la siamo... letteratura è sacra. Oggi che siamo. Oggi che la siamo... letteratura è sagrada. E la letteratura. Quindi, questo momento magico che abbiamo vissuto, l'abbiamo vissuto perché eravamo nella pagina della letteratura. Gianluca Di Dio è letteratura, c'ho cazzo da fare, cioè ti rimane così perché lui l'ha scritta, queste cose rimangono perché sono state scritte, quindi dobbiamo ridare un significato molto alto al concetto di scrittura, perché la scrittura crea mondi. Quando dicono in principio era il verbo eccetera, non è la comprensione del mistero della poesia che al popolo ebraico, ma non è diversa la Grecia dove l'oracolo la scrittura crea mondi. La parola crea. Vedi perché mi porto sempre dietro. Ma siete una bella coppia, ma lui è affittabile. No, perché lui è modesto e vola basso, ma tutto quello che io dico. E non mi costa nulla. Mettendoci la faccia, fra virgolette. Ma, è lui. Ma, scusa, cioè, io sto dicendo. Il 4 io siete parlo sempre di... voi due? Il 4 siete sempre voi due? E alcune sigulde, però ci sono. Sì. Ancora... Cosa sono le sigulde? Si parla difficile a Coxo Spaziale. Vai con le sigulde. Sono dei marsupiali strani che si deprimono. Come quella lì che stava nell'albergo? Sì. È proprio una receptionist. Ah, allora mi sono confusa. Ma le sigulle invece sono animali che vivono sull'ansa di questo fiume e che quando c'è il sole cantano alla mattina prestissimo sui comignoli dei tetti. Marsupiali strani che si deprimono. Esatto. Marsupiaux étranges qui deviennent déprimés. Che deviennent déprimés. deviennent déprimés quando manca la luce, quando manca il sole. E a quel punto o hanno due reazioni: o si ingrassano e si infogano di patate di aneto, soprattutto di aneto. No. Di rapa rossa. Di rapa rossa. Buono, molto ferro. Sì. o si lasciano ingrassare e poi si lasciano andare come delle pellicce dai tetti, cadono a terra e morte. Oppure si lasciano dimagrire, oppure si gonfiano e poi partono nella foresta come dei palloncini foraci. Ah, ho capito. Queste sono le due possibilità. Interessante. Però quando c'è il sole invece canta. Quindi c'è anche una foresta in quell'ansa del fiume dove c'è una foresta di betulle. Molto, molto. Avrei tantissime domande da farti, ma gliele potrò fare anche il 4. Sì, il perché, 4. Cosa succede? 4. Cosa succede? Allora, dobbiamo usare la formula che tu hai giustamente ripreso nel tuo messaggio, che non è una presentazione di un libro. No, ma ti sembra? Il 4 è come uccidere la solita presentazione del libro e vivere felici. Vuoi che la diciamo anche insieme? Sì. Come uccidere la solita presentazione del libro e vivere felici. Questo è perché c'è una brevissima storia con ABC, che è l'associazione di cui faccio parte dal 2013, che ho creato con la Vignatur, Paolo Fiorangelini, Valentino Corvino, eccetera. Tutti bravi ragazzi. E attualmente nel gruppo si è allargato con Guglielmo Pagnozzi, musicista jazz, eccetera, e Gianni Marras, regista. Che cosa succede? Ho presentato, ho fatto i conti, più di 150 libri, ho avuto bellissimi ospiti, adesso faccio torto se ricordo Francesco Scarabicchi, Alberto Masala. No, andate nel sito e troverete tutto. Roberto Pazzi, tanti, esatto. Però mi sono accorto a un certo punto che la formula porta sfiga. Se tu dici, fa la presentazione di un libro, tu sei sicuro che ci vanno. Le signore stanche, con tutto rispetto, che non hanno niente da fare, gli amici... E gli amici. E quelli che cercano l'aperitivo. Ma davvero, mi dispiace, non posso. Come sarei voluto. E se non viene nessuno. Perché la formula porta sfiga, io lo voglio ripetere. E invece noi facciamo un po' anche all'inizio. Noi facciamo come uccidere la solita presentazione. Ma c'è un motivo. Il motivo torna alla letteratura. La letteratura vera è qualcosa che ti tocca l'anima. Allora, tu sei disposto un giorno alle 6 di sera andare in un posto dove ognuno, come in chiesa, in maniera pigra, c'è anche la chiesa vicino, tutto... poi sì, no, in chiesa nel senso un po' formale del termine, non spirituale, no? Nel tempio, sai, queste visioni, ad esempio del film Chocolat, quando in chiesa c'è tutto il radunarsi dei vizi privati, pubbliche virtù, no? Le ipocrisie del sociale che vanno lì, tutto questo bigottismo laico nelle presentazioni dei libri è presente, dominante. Ma il 4 non ci sarà. Ma il 4 non ci sarà, perché noi lo uccideremo prima. E adesso ci salutiamo. Sì. Sì. Per un momento, metti su una canzone. Ringraziamo grandemente i due poeti che hanno reso eccelso questo Cox. Veramente. mi viene quasi male a mettere il solito jingle pre. Sì, ma quello lì è dedicato alle menzioni. No, infatti, alle menzioni che abbiamo dato il peggio di noi. Ringraziamo tantissimo Gianluca di Dio. E Gabriele Via. Yeah. Che ci hanno deliziato con tutta questa letteratura. Devo dire che sto avendo degli scompensi letterari stasera. Tra pochissimi giorni, il 4. Dopodomani. Alle 18:30 in piazza di Porta Castiglione 3 a Bologna. E vogliamo salutare anche Giffo. Don Mario. No. Sì, ringraziamo Don Mario Fini, che è il parroco che ci ha dato fiducia, ci ha dato il teatro, ed è una persona straordinaria che nella sua funzione di parroco accoglie gli homeless, fa le mense, crea spazi per il dopo studio dei ragazzi, e tramite voi accoglie anche la letteratura tutti gli anni, e grazie a noi accoglie un gruppo di artisti. Quindi l'ingresso è di fianco, diciamo sullo stesso lato dell'ingresso dei Giardini Margherita, sì, tra i giardini e la chiesa c'è un cortile che porta a quello che per chi è di Bologna era lo storico cinema Castiglione. Questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. See your face, I know what you like. You know that I love you. Wanna buy you more shit, but I can't afford it. You know that I miss ya, fighting like a Taurus. Look me in the eye, tell me that you're fine. I'm not here to taste all your cheese and wine. All my friends are Virgo, safety is important. You can trust me, baby.